Carissimi amici di Archeologia Videoludica, bentornati a questo episodio che è il sesto della quinta stagione. Quinta stagione, questo è un episodio un po' particolare perché è un episodio talmente lungo che sarà diviso in 3-4 episodi, adesso vedremo. Ed è un episodio anche importante, insomma, perché oltre all'argomento di cui parleremo all'interno di questo episodio, che vedrete, che avete già capito, insomma, vedendo la copertina e sicuramente il titolo, è anche un episodio che, insomma, piano piano entreranno i vari personaggi che hanno significato tantissimo nella storia di questo podcast, che abbiamo deciso così, in maniera tranquilla e serena, di mettere in pausa. Diciamo che abbiamo pensato che Archeologia Videoludica ha raggiunto in questo momento un capolinea, diciamo, è arrivato a un momento in cui probabilmente è giusto fermarlo per poi magari anche ripensarlo nel prossimo futuro e ridargli magari un'identità che insomma forse è un po' mancata nel cercare di dargli un maggiore competenza, e cercheremo nel futuro di trovare una via di mezzo. Iniziamo come primo ospite, che poi sarà presente anche insieme agli altri dopo, a fare questo percorso in questo grande speciale di 3-4 puntate, appunto, c'è Alex Raccuglia. Ciao a tutti, ciao, che bello essere qui. Perché insomma, pensate che questo momento un po' particolare di Archeologia Videoludica, che è un momento che si fa un po' strano, perché poi in realtà può sembrare una stupidaggine, però è stata la prima trasmissione di Italian Podcast Network, e quindi in qualche maniera un po' ci lascia un po' interdetti anche a noi, no? Magari pensa chi lo ascolta, dice no, ma come? Però insomma, ci siamo io e Alex, proprio abbiamo fatto una riflessione, dice sì, però dove va questo programma che sì, ha aumentato tantissimo i collaboratori, ha aumentato tantissimo la competenza, le puntate sono veramente interessanti, però in qualche maniera ha perso un po' la sua immagine, il suo logo, il suo aspetto, anche, come posso dire, anche la sua personalità. Già il fatto che siamo Archeologia Videoludica e non c'è più il professor Jones già è in qualche maniera una cosa strana, insomma, un po' è un po' una desincronizzazione, insomma, di quello che è il concetto. E parlando appunto con Alex, abbiamo detto forse c'è un momento in cui va un po' ripensato tutto, quindi voi vi sembrerà un po' strano tutto questo discorso, però Alex, insomma, è giusto anche farlo, no? Perché noi a questo programma non è che ci abbiamo messo solo il sudore, l'impegno, come ha detto Alex anche in Tech Radio, siamo stati là ore di montaggio, lo sbattimento, l'organizzazione, ma cioè, alla fine noi a questo programma gli volevamo bene un po', sembra una stronzata, ma è così, no? È una cosa strana, perché quando uno di solito crea qualcosa, un prodotto, un progetto di questo tipo, lo considera un po' come un suo figlio, poi ovviamente i figli crescono e si evolvono. In questo caso invece è una cosa un po' diversa, perché era una cosa che facevamo a tante mani, che facciamo anche a tante mani, che però a un certo punto questa cosa ci è sfuggita di mano, ma senza andare in una direzione ben precisa, senza sapere dove andare. Forse non dovrei dire queste cose, però questo è come ci siamo sentiti. E allora l'idea è quella di arrivare a questa milestone, cioè questo grande momento, e parlare di quello di cui parleremo. Non abbiamo ancora anticipato, però perderemo diverse puntate, cioè impiegheremo diverse puntate per sviscerare tutto quello di cui vogliamo parlare di questo argomento. Però una volta finito questo, diciamo che ci sediamo e cerchiamo di ripensare a ritrovare lo spirito che avevamo una volta, lo spirito veramente di un modo di fare podcast che qualcuno potrebbe considerare anacronistico. Dal mio punto di vista in realtà era quella andare all'avventura verso le frontiere del mondo, verso le frontiere dove non sai cosa c'è dopo, oltre il mare. Almeno io credo che sia così, credo che sia così anche per te, ma credo che sia così per tutti quelli che collaborano, hanno collaborato e collaboreranno per Archeologia Videoludica, perché dal mio punto di vista non sta finendo, si trasformerà in qualcos'altro che potrebbe essere un ritorno all'origine, qualcosa di ancora completamente nuovo, completamente diverso, però che dal mio punto di vista, almeno non è tanto il mio obiettivo, quello che credo che sia il sogno comune è fare ancora qualcosa che ci diverta e ci faccia ridere tanto. Sì, io aggiungo che questa poi è forse la fase un po' particolare che sta attraversando proprio Italian Podcast Network, perché come diceva Alex, io aggiungo che nel voler assomigliare a qualcosa che non siamo, abbiamo perso quello che eravamo, cioè nel senso, ma non soltanto dal punto di vista comportamentale o caratteriale, no, ma proprio dal punto di vista anche mediatico, no, perché questo era un podcast e i nostri podcast hanno sempre voluto assomigliare aspiravano a somigliare alla radio, quando la radio non sei. Ok, e quindi questo in realtà poi creava anche un po' di problemi. Quindi nel nostro voler cercare di specializzarci sempre di più in qualcosa che forse non ci apparteneva, abbiamo perso l'entusiasmo, magari lo spirito con il quale facevamo le cose all'inizio, quando ve lo assicuro, mi dispiace perché non vorrei che poi ci fossero dei fraintendimenti anche tra i colleghi o roba del genere, ma so che già ci siamo capiti tutti. Quando appunto dicevamo, uscivamo dalle puntate, magari che avevamo finito alle 2 di notte a registrare, ma con le lacrime, magari perché veramente avevamo raccontato cose belle, magari la nostra infanzia, avevamo raccontato la storia del videogioco, ma allo stesso tempo ci eravamo divertiti come pochi. Quindi è giusto, insomma, che se c'è un momento in cui le cose si devono fermare, secondo me. E per fermare archeologia videoludica in questo modo, in cui poi vedremo che cosa succederà, non potevamo chiaramente che non fermarci con lo speciale degli speciali, che sicuramente qualcuno darà fastidio, perché già allora vuol dire che quello è più speciale di quell'altro, e forse non dal punto di vista emotivo personale, ma sicuramente dal punto di vista dei dati storici, noi non potevamo non concludere con, insomma, la regina, il re, la regina di tutte le macchine dell'epoca, insomma, degli anni 80, che era il Commodore 64. Alex, che insomma tu c'avevi l'MSX. C'avevo l'MSX, ma la cosa interessante è che io sotto sotto sognavo che me lo regalassero i miei genitori, solo che non me l'hanno mai regalato, perché grazie al fatto che non ho mai avuto un Commodore 64, ho sempre giocato poco, e questo mi ha trasformato in un programmatore. Però io, quando leggevo su Zappi le recensioni dei giochi che c'erano per il Commodore 64, rosicavo, come dite voi a Roma, ma la cosa rosicava ancora di più quando c'era lo stesso gioco che magari usciva per MSX e gli davano tipo un 2, mentre su Commodore 64 si beccava un 9, per dire. E ero lì, ma che cazzo, ma perché anch'io no? Cioè, mi sentivo veramente ai margini ed emarginato di una macchina che aveva un sacco di idiosincrasie, però cazzo, c'erano i giochi fighi. Sì, c'aveva un sacco di limiti, ma effettivamente. E allora questo percorso che faremo appunto nella grande speciale del Commodore 64, poi metteremo nei prossimi segmenti delle prossime puntate, parti, insomma, non so come chiamarle, metteremo anche musiche, cose, insomma, cercheremo, insomma, anche di divertirci. E ovviamente stiamo parlando di una macchina che chi ce l'ha avuta se l'è proprio spupazzata e se l'è veramente divertita. Chi non ce l'ha avuta comunque la conosce, perché chi, insomma, è veramente un po' difficile non conoscere, non avere avuto a che fare comunque col Commodore 64. E prima di partire, insomma, con questo speciale, e partiamo ovviamente con la prima parte inerente alla storia che trascorre tra il VIC-20 e il Commodore 64, proprio perché con il VIC-20 ci eravamo fermati nella storia Commodore. Voglio dire che appunto saranno vari segmenti, vari file che usciranno nelle prossime settimane, ma l'episodio rimarrà sempre 5x06, cioè non è che sarà 07, 08, 09, quindi, cioè, nel senso, è comunque un enorme episodio che, invece di accorparlo in 3 ore e mezza, che insomma sarebbe stato effettivamente un po' eccessivo, abbiamo pensato, insomma, di suddividerlo così. Allora, Alex, tu dal punto di vista hardware non c'entri niente, però poi tu c'hai, più avanti, c'hai anche la tua parte, perché chiaramente, insomma, poi ognuno era magari ha più specializzazione in un certo tipo di discorso, insomma, poi parleremo successivamente anche di aspetti importanti del Commodore 64, che non è soltanto la storia, ma sarà l'hardware, che ovviamente è particolare, i videogiochi chiaramente, perché è archeologia videoludica, poi parleremo anche dell'audio, insomma, quindi sì, anticipo sin da ora che Commodore 64, rispetto ai computer che erano usciti nell'epoca, aveva un comparto audio assolutamente fuori parametro per la sua ricchezza, per cui parleremo un po' delle caratteristiche tecniche e poi vi faremo sentire un po' di esempi di dove i musicisti di allora, i musicisti della chiptune, cioè quelli che erano contemporaneamente musicisti programmatori, riuscivano a spingere anche oltre i limiti preventivati questo chip audio, il famoso SID, SID. Esatto, il famoso SID. Va bene, allora adesso vi lasciamo così in questa prima parte, cercando anche di sgrassare un po' questo senso un po' strano che ci portiamo dietro. Poi dopo, già dal prossimo episodio, ci saranno altri personaggi insieme a me e Alex, che saremo il filo conduttore ovviamente di questo mega speciale. Poi ovviamente saranno i personaggi che hanno fatto la storia di archeologia videoludica, e quindi insomma già ve l'aspettate che ci sarà una persona, perché molti mi hanno chiesto: ma allora avete litigato? No, e questo dimostrerà il fatto che insomma noi il professor Jones gli vogliamo bene, e non solo, voglio dire, questa trasmissione secondo me è anche un omaggio e un rispetto a lui, perché che si debba fermare, perché comunque va ripensata al fatto che comunque questa è una cosa che era nata da noi, e quindi è giusto insomma che qualcosa si interrompa. Allora, parliamo, la prima parte, la storia tra VIC-20 e Commodore 64, Stefano Paganini e Carlo Sant'Agostino, per forza, di archeologia informatica. Quindi beccatevi questa prima parte, noi ci sentiamo dopo la chiusura, ciao! E quindi prende il via questo ultimo fantastico episodio di archeologia videoludica prima di arrivare insomma a decisioni future. Insomma, però noi volevamo concludere questo ciclo, questa stagione, ma questo ciclo di archeologia videoludica con il tema che tutti ci avete chiesto, tutti scrivevate: ma quando ci arrivate, quando ne parlate, e via dicendo. E beh, avendo parlato ovviamente della nobile inglese, non potevamo poi ovviamente non prendere in mano la questione della storia del Commodore 64, che è il computer che tutti abbiamo amato tranne Stefano Paganini, chiaramente. Ma non è vero. Ciao, non Stefano. È vero. Ciao a tutti. E con noi, chiaramente, perché se si parla di informatica anche in archeologia videoludica non può non mancare ovviamente Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti. Allora Carlo, tu non c'eri perché ancora non sapevi della nostra esistenza illo tempore, però insomma noi abbiamo già parlato un po' della storia del PET, abbiamo parlato della commercializzazione, dell'uscita del VIC-20, anzi Stefano se lo ricorda perché abbiamo fatto pure una puntata speciale tra VIC-20 e ZX81, quindi c'è stato praticamente tutto questo primo percorso Commodore verso la commercializzazione delle macchine per l'informatica domestica. E poi adesso ci rimarrebbe veramente da raccontare che cosa è successo in Commodore e al buon Jack nel periodo tra il VIC-20 e il Commodore 64, però credo che tu volevi fare una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Ma non è che volevo fare adesso non possiamo fare un riassunto delle puntate precedenti, sennò come al solito io parlo per 6 ore e un quarto, quindi dobbiamo fucilare. C'è Jack Tramiel dalla tomba che ci dice semplicemente adesso purtroppo io le puntate precedenti non le ho sentite, quindi non posso sapere cosa avete detto, cosa non avete detto, però sicuramente c'è da dire che negli ultimi anni la storia dell'informatica è stata, diciamo, approfondita meglio, nel senso, comunque si sono trovate documentazioni, testimonianze e ricordi dell'epoca tali per cui molte cose che prima non si sapevano adesso si sanno di più, sono state documentate o comunque si conoscono perché gli stessi protagonisti dell'epoca le hanno dichiarate e si sono ritrovati poi riscontri con ricerche più serie tra virgolette all'interno di riviste e dell'epoca e documentazione dell'epoca. Una delle cose che spesso si dimentica e comunque non è mai stata poi nell'ambito diciamo della ricostruzione storica di quel periodo riportata con chiarezza è che stiamo parlando in quel periodo, ricordiamocelo, della più grande azienda del mondo produttrice di quelli che noi oggi conosciamo come personal computer, cioè nei campi in quello ossia che la Commodore Business Machine, tu dici. Esatto, la Commodore Business Machine. C'è un articolo su Artecnica che è uscito qualche anno fa dove ripercorreva 30 anni di market share nel personal computer. Allora, attenzione, cosa vorrei specificare? Cioè, noi ci occupiamo con archeologia informatica di quella che è la storia dell'informatica e facciamo parte dei cosiddetti appassionati di retrocomputing. Gli appassionati di retrocomputing hanno un vantaggio che è quello di cercare tutto nella storia dell'informatica, appassionarsi di tutte le macchine, anche le più oscure, le più sconosciute, le più mai sentite. Anzi, perché meno hanno avuto successo, meglio. Esatto, e più piacciono. E quindi più adesso fascino, spesso certo, si chiaro. Sente parlare di macchine che magari hanno avuto un'importanza seminale sicuramente e piacciono a molti. Anch'io mi appassiono a parlare di macchine che nessuno ha mai sentito nominare prima, ma se dobbiamo parlare poi di quello che è avvenuto nel mercato e nella storia, ci troviamo di fronte al fatto che la maggioranza delle macchine ai quali siamo appassionati adesso nella storia dell'informatica hanno avuto un'importanza molto relativa. Ricordiamoci che negli anni che vanno dal 1976-77 fino ad arrivare al 1984 non c'era azienda come la Commodore con una penetrazione di percentuale di mercato al mondo. Adesso spesso c'è anche il revisionismo storico, se vogliamo, no? Un po' le aziende, quelle che sono sopravvissute al periodo e quelle che fanno il mercato attuale tendono a spingere ovviamente in questo revisionismo, ovviamente per dotarsi anche di un'importanza storica nobiliare. Esatto. Carlo Sant'Agostino si sta riferendo a una mela. Non solo, anche la stessa IBM, l'HP per sì. esempio, HP ha pubblicato degli articoli di storia di informatica dimenticandosi di citare mille altre marchi, per dirne una, cioè non è solo... Sono tutti alla ricerca di un'origine nobiliare. Sì, poi ovvio Apple antico. Adesso, perché si parla di Apple adesso, perché è importante adesso, ma tra qualche anno sarà qualcun altro, cioè può essere che fra 10 anni Google dirà che è stata lei a fare i computer per prima, quindi o dirà che ha inventato lei lo smartphone... e non la Apple, per dire, cioè, bisogna sempre stare attenti a quello che è l'attuale, no, comunicazione, e bisogna fare un po' una ricerca seria di quello che è stato il passato. Se noi andiamo a vedere le cifre di mercato, soprattutto la cosa importante, visto che stiamo parlando del Commodore 64, il Commodore 64 è stato effettivamente il computer che ha sdoganato l'informatica personale, chiamiamola. In quel momento il mercato si chiamava home computer, anche perché da un punto di vista marketing si intendeva a differenziare il mercato professionale da quello casalingo, quindi si era creata questa diciamo etichetta, se vogliamo, di più di marketing che altro, che era quella del home computer. Poi comunque c'era da invadere la casa. Secondo me era cioè, nel senso, il grande fascino stava proprio nel fatto del far capire, vedete quei computer super cazzuti che voi vedete e che pensate siano irraggiungibili, in realtà oggi noi ve li possiamo portare dentro casa. Insomma, era un po' questo il concetto, no? Possiamo collegare al televisore, che cioè, sembra un dettaglio, ma soprattutto nelle case americane il fatto di poter collegare qualcosa al televisore, di non avere bisogno del computer vero col terminale, aveva un appeal spaventoso. Infatti prima di passare la parola a Carlo, dico che infatti tantissima gente ha detto: oh cazzo, mi sono comprato il computer, ma me devo comprare il televisore. Comunque, dai, andiamo. Secondo televisore. No, perché mica tutti ce l'avevano. Giusto per farvi capire un attimo in cifre, parliamo di migliaia di unità, nel momento diciamo culmine del mercato Commodore, che sta tra l'83 e l'84, perché dopo l'84 inizierà il declino, ma questo ne parliamo dopo, per esempio il market share del Commodore 64 si attestava su quasi 2.500.000 unità vendute. Per farvi un rapporto, allora, la stessa IBM col PC che era uscita, che era la seconda dopo la Commodore, era intorno al 1.200.000. La Apple con l'Apple 2 era sui 300.000, a pari con l'Atari 400-800, circa 300.000-400.000. Questo per darvi il rapporto, cioè stiamo parlando di sproporzioni incredibili, cioè in pratica il Commodore stravendeva, questo fino al 1984 vendeva più dell'IBM PC e dei cloni messi assieme. Dopo il 1984 erano su un altro pianeta, che era su un altro target, che era su un altro mercato, tra l'altro. Sì, dopo si va a confluire, però, ricordiamocelo sempre, il mercato tenderà la divisione. Ma no, voglio dire, ma questo, che c'era questa ho specificato, divisione ho specificato tra un computer e personal computer, esatto, che poi dopo sono andati a confluire. Già a quell'epoca comunque c'era una certa, diciamo, fusione, nel senso che l'home computer e il personal computer era una divisione più che altro di marketing, perché poi a casa trovavi gente che comunque si comprava il PC o l'Apple 2 e altri che si compravano l'Atari o il Commodore 64, ok, ma Carlo, anche per scusa, fare le stesse cose. Butto una, quell'epoca, due suggestioni sulla tecnologia informatica. Abbiamo scritto sulla tecnologia informatica giusto due punti. La pubblicità dell'epoca, siccome è una cosa che mi appassiona molto, ogni tanto pubblichiamo sulla tecnologia informatica. Infatti la pubblicità vedevi che andava sullo stesso target, oltretutto. Abbiamo pubblicato due cose, sono sulla tecnologia informatica. Uno era lo spot televisivo del Commodore SX64, che è la versione portatile. Ed era divertente, cioè era la versione da sopravvivenza, più che la versione portatile, diciamo, cioè, esatto. Quello da quello che ti mettevi nell'accampamento quando c'era l'apocalisse zombie. Ricordiamolo che è stato il primo trasportabile a colori, anche questo è importante. Ed era un macigno, tra parentesi, è un macigno. Sì, ed era comunque allineato, proiettato al business user, cioè tu vedevi che comunque era un non computer proiettato per il business user, vuoi perché c'era solo il floppy, vuoi perché comunque ti facevano vedere l'utente con le stampante, cioè un uomo, non un ragazzo con i joystick. Certo, assolutamente. L'altro spunto di riflessione è una vecchia pubblicità, aveva fatto divertire molto Simone Pizzi, dell'Atari, di Atari Writer, ed è l'80, dove c'è Robert Ludlum, che è l'autore dei romanzi di Jason Bourne, che dice: io scrivo con l'Atari Writer. E c'era una ricerca spasmodica di certi testimonial. Adesso noi, quando parleremo del amato VIC-20, citeremo sicuramente la pubblicità con William Shatner, cioè col capitano Kirk. C'era una disperata ricerca del testimonial televisivo, comunque di qualcuno che desse un valore aggiunto al prodotto, ed era di solito appunto un personaggio televisivo, uno scrittore. L'idea che il signor Ludlum abbia scritto anche solo una pagina di un Jason Bourne con l'Atari 800 o con 400 con un Atari Writer... Magari ci ha scritto pure tutto, che ne sai? Cioè... che ne sai, vabbè. Però faceva... No, ha ragione. Era un tentativo di convergenza... Cioè io fine mia zia ha scritto una tesi col word processor del Commodore 64. Cosa vuol dire? È che io scrivevo le tesi con lo Spectrum alle superiori, cioè non è quello con ovviamente... Con Tasword magari... Esattamente, vabbè, ritorniamo in America, c'era una tendenza. Ritorniamo, Stefano, scusa, perché poi già purtroppo io capisco che il nostro entusiasmo è di parlare cosa, però purtroppo già sappiamo che il focus è difficile da tenere. Spingendo, ecco, quello che mi premeva appunto, e anche l'intervento di Stefano va in questa direzione, proprio perché questo mercato in realtà in quell'epoca non era definito, si facevano la guerra tra di loro, giusto per ricollegarmi, c'era anche la pubblicità della Apple, che andava contro la Commodore, per dire compratevi un Apple II che va bene anche per giocare oltre che per studiare, c'era una pubblicità sì, americana. L'idea era quella, era quella, insomma, esatto, sì, sì. Quindi il mercato in realtà era molto anche quella del Commodore 128 che dice tosto per con avere un Commodore il 128, cappellino, esatto, e la mela ci sopra, ci vuole un Apple 3, Apple 2C, una tastiera, c'è cioè una vagonata di roba per fare un 128. È bella la pubblicità comparativa, sì, di quei tempi, perché sono feroci. Sono feroci, si poteva fare solo negli Stati Uniti, non da noi, però erano divertenti. Infatti da noi hanno fatto quella subliminale che stavo citando io, che era quella del 128 con su il cappellino dell'IBM e la mela trafitta sopra, esatto, che faceva intuire che era meglio degli altri due. Comunque il punto che mi premeva a mettere era su questo, cioè se noi andiamo a parlare di quel periodo ricordiamoci che stiamo parlando di un'azienda che adesso non esiste più, ma che in quel momento era la più grande azienda del mondo, esatto, era la più grande azienda del mondo, con tutto ciò che ne consegue, e quindi la seconda parte di poi fuoco, esatto, e come capacità di spesa, ok, e anche di errori nella seconda parte, infatti, come le altre, nella seconda parte infatti parleremo poi di cioè nel senso, partendo proprio qua, allora questa è l'apertura, la chiusura, quindi la seconda parte di questa discussione in realtà è proprio l'antitesi, no? Proprio l'opposto, perché poi stiamo parlando del più grande che a un certo punto sparisce, no? E ci domanderemo, sì, chiaramente poi ecco, ci domanderemo cosa, anche il perché, no? Nel senso, perché poi vabbè, chiaramente perché ce ne sono no, vabbè, non adesso, non per altre cose, non adesso. Comunque anche un'altra cosa brevissima, non è che stiamo parlando dell'unica, cioè come spesso sento parlare di Commodore come dell'unica che era la prima che poi è sparita, assolutamente, cioè, non sono state mille, questo l'abbiamo detto in diverse occasioni, voglio dire, non è che il problema, ecco, esatto, che il problema è che rispetto a tante altre, ecco, gli esempi come Atari o come Commodore, poi Atari è un discorso ancora a parte, perché in realtà poi il marchio Atari tendenzialmente ancora esiste, esiste, sì, anche il marchio anche Commodore, Commodore. Per questo, esatto, sì, sono però, marchi, vabbè, che comunque tendono sempre a uscire perché hanno un appeal e quindi c'è gente che li vuole sfruttare, esatto, però insomma, vabbè, il marchio Commodore forse con addirittura vicissitudini ancora peggiori, no, di quello di Atari, perché comunque Atari oggi è comunque un distributore, sì, anche dei videogiochi, no, se vogliamo, anche a livello internazionale, il marchio, sì, non c'entra, esatto, più niente con quella Atari, no, è chiaro, però poi comunque vabbè, comunque abbiamo detto Nokia adesso che non c'entra più niente con la Nokia di prima, la stessa cosa, che è un marchio di Microsoft ormai. Comunque come dicevamo appunto, c'è Commodore come tante altre, ma Commodore probabilmente perché è stata appunto la vetrina più ampia, no? È stato forse il come posso dire, cioè ci sono state tante aziende dell'informatica dell'epoca che magari hanno avuto un momento di splendore, poi magari sono cadute nel dimenticatoio, però Commodore in particolare ha avuto un momento, il parco di appassionati, oh, Amiga, cioè, incluso me, cioè, ecco, stiamo parlando di gliela perdonate, cioè, questi hanno fatto il Commodore 64 e l'Amiga 500, okay? In realtà l'Amiga, cioè, non c'entra niente con Commodore, lo so, però l'hanno distribuito loro, è una cosa, cioè, molto, cioè, complicata da spiegare. Per assurdo, il successore del Commodore 64 a parole dello stesso Jack Tramiel è l'Atari ST, sì, sia come concetto di mercato che come presentazione, e diciamo che quello è stato anche uno dei motivi, il litigio tra, anzi direi che forse se andiamo proprio a estrapolare, il motivo principale del fallimento di Commodore è stato il litigio tra Jack Tramiel e la Commodore quando lo cacciarono alla fine, se proprio vogliamo vederla. Mi ricordo la storia di qualcun altro, anche questo, insomma, sì, sì. Anche se lì poi ci sono stati epiloghi, esatto, sicuramente diversi, però diversi. Ecco, diciamo che ci sono, diciamo, similitudini, sicuramente. Diciamo insomma sostanzialmente che poi chiaramente l'era Amiga, ma poi ci arriveremo, segna, anche se ovviamente l'Amiga non è un prodotto tecnologicamente interno a Commodore, comunque segna anche un passaggio generazionale tra il vecchio computer basic e il computer con le nuove interfacce, quindi cioè proprio, sì, nel senso, diciamo, era anche il momento, no, quando c'è stato, sì, sì, quello è il periodo del cambio di tutti, non solo di Commodore ma di tutti, anche di Apple con lo stesso Macintosh e di tutti gli altri, ma la transizione da 8 a 16 bit, tra 84 e 95, esattamente. Allora, comunque, no, come dicevo, abbiamo parlato nel passato del VIC-20, l'abbiamo confrontato la ZX81, poi ovviamente con Stefano c'erano differenti opinioni sulle quote di mercato che il VIC-20 e lo Z81 hanno hanno preso rispetto ai rispettivi, però comunque il VIC-20 è stato comunque un piccolo successo commerciale, un grande successo, è stato il primo computer a superare il milione di unità vendute. Ok, a anche quel se punto... in realtà lo ZX80 è stato più un long seller, quindi è durato più anni rispetto al VIC-20. Esatto, questo sicuramente. Infatti vabbè, forse Stefano poi tante volte tende insomma a, cioè nel senso non ci capiamo, proprio perché se parliamo del numero spicciolo è un discorso, no? Se parliamo dell'impatto a livello forse più a lungo termine, probabilmente curiosamente il VIC-20 ha avuto, allora scusa mi interrompo solo una cosa, mi riallaccio a quello che avevamo detto l'altra volta, avevo ritrovato due note che avevamo scritto. Allora, il VIC-20 ha avuto stranamente un ciclo vitale più corto, nel senso che è uscito e dopo pochissimo è uscito il Commodore 64. Esatto, sì. Lo ZX81 in realtà non è mai stato rimpiazzato dallo Spectrum, no, perché esatto. Comunque nel cuore degli inglesi e nel mercato sotterraneo dei produttori di terze parti, sia di software che di hardware, hanno continuato a giocarci per anni. E stessa Sinclair ha continuato a costruirlo. Butto questa introduzione, questo lancio a Carlo, se me lo permette. Allora, una delle cose che avevamo detto l'altra volta è che rispetto all'architettura, e questo Simone, cioè non è che stia tanto a girarci intorno, lo zio Clive braccino corto Sinclair, esatto, ovviamente faceva le cose al risparmio. Commodore arrivava con un grandissimo vantaggio, perché aveva un computer, sto parlando del VIC-20, cioè quando abbiamo fatto la puntata forse ne avevo anche il mio in mano, con una tastiera vera. Quello tuo in mano era sì, anche... sì. No, infatti mi piaceva ricordare VIC-20, con una tastiera vera, con una tastiera vera, con una porta joystick vera, cioè uno prendeva il joystick dell'Atari che aveva in salotto, lo collegava lì e funzionava, con i colori, con una grafica molto basic perché ha un font da 32-40 colonne orrendo, gigantesco, non importa, comunque aveva suono e audio, ma soprattutto qui il lancio per Carlo, dal punto di vista strettamente architetturale la grossa novità è che introduceva anche rispetto ai PET, perché se penso al mio PET tutto sommato aveva un'architettura molto simile a un Apple II, a un TRS-80, cioè a macchine molto 1977. La novità dell'80-81 di un VIC-20 è il fatto che affiancava a un 6502 che era tutto sommato comune ed era, diciamo per certi versi, parallelo a uno Z80, affiancava un coprocessore. Cioè il video interface chip tutto sommato agevolava l'introduzione della grafica e dell'audio di buona qualità, per cui il salto qualitativo derivava da un sollevare il processore da generare il video, fare l'audio, gestire la tastiera e fare mille altre cose con un processore dedicato nel Commodore 64. E poi ce ne porteremo nel futuro questo discorso, che oramai oggi è così, cioè dappertutto, perfetto, ma nel Commodore 64 in realtà è il vero come dire, il vero valore aggiunto era proprio il fatto che l'architettura ancora adesso, chi la ripara, chi ci mette mano, chi tenta di fare comunque di tener viva la memoria del Commodore 64, ha una grandissima agevolazione. Allora, le cifre l'altra volta ne abbiamo detto, sono tra i 17 e i 30 milioni di macchine prodotte fino al 92-93 nelle varie incarnazioni, nelle varie schede madre, nelle varie... Stai parlando del Commodore 64 adesso. Commodore 64, sì, esatto. Sì, no, perché io ero rimasto... Attualmente il Commodore 64 anche è... Anche io, però. Ero rimasto al VIC-20, scusate. No, sto dicendo, il passaggio dal VIC-20 al Commodore 64 segna un vero prodotto industriale. Commodore 64 è per tutti, è per molti sinonimo di un oggetto, cioè del computer degli anni 80. Sfortunatamente, dico, perché secondo me ruba allo Spectrum una giusta posizione che secondo me ha, ma non è questione, no, di Stefano, competizione, allora, ha una sua importanza. Allora Stefano, richiariamo, lo Spectrum l'ho detto mille miliardi di volte, Spectrum ha una sua importanza ma relativa a uno spazio geografico ben definito, più che europeo. È l'Europa e l'Inghilterra, certo. Fine, cioè non stiamo parlando di nient'altro, no, poi ci sono state le storie di Timex, con buona pace di Timex che ha tentato di introdurli in America. Esatto, quindi finisco comunque questa cosa, la vera forza del 64 a mio avviso è il fatto che ha migliorato sulla base della lezione del VIC-20, che fisicamente, esteticamente, esternamente è uguale, simile. Sì, te stanno a venire a prendere però Stefano. Identico. Sì, sento le ambulanze dietro, la polizia, non so che... E praticamente introducendo questi coprocessori grafici, questo cippone, il fatto dell'ADSR per l'audio, ha praticamente sfondato su tutti i fronti: grafica, giochi, audio, l'interfaccia, una specie di interfaccia seriale per i floppy, cioè okay. In realtà è stato però, il miglior sistema posso, espandibile. Stefano, mi allaccio e preciso. Allora, tu adesso l'hai affrontato correttamente, ma hai affrontato stai guardando temi. La visione da ovviamente conoscitore della macchina, ok? Ed è giusto, nel senso che tu l'hai analizzato da un punto di vista tecnico e hai detto: ah, guarda, il computer prima era così, il Commodore 64 era così. Non è solo, cioè, è giusto che era così, ma perché era così? Come è riuscita la Commodore a fare questo e gli altri perché non l'hanno fatto? Allora, per capire questo, dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro, brevissimo. Jack Tramiel, fondatore della Commodore, lui inizia a entrare nel mercato, diciamo, informatico con i calcolatori, le calcolatrici, ok? C'è una business famosa... machine non per niente. Esatto, lui inizia a entrare in questo mercato e a far diventare grande la Commodore con le calcolatrici. Fa un viaggio in Giappone, scopre la costruzione di queste novità che sono i calcolatori elettronici, quindi non più meccanici, e vuole entrare alla grande in questo mercato. Ci riesce negli Stati Uniti, prima in Canada, fondandola poi negli Stati Uniti, ci riesce, ma a un certo punto, un anno, ha una grossissima perdita. Perché? Perde quasi 50 milioni di dollari quell'anno. Perché? Perché la Texas, che era il produttore del chip delle sue calcolatrici, decide di entrare direttamente nel mercato dei calcolatori elettronici. Hanno detto: au, che siamo a pettinare, esatto, le bambole, perché e quindi lui non poteva più competere, lui come gli altri, perché la Texas produceva processore e calcolatrici. Jack Tramiel, grande businessman, lo dobbiamo riconoscere, dice: cacchio, non va bene, cosa faccio? Dice proprio cacchio, eh? Dice proprio perché cacchio, abbiamo... fuck. Cacchio. Oh, fuck. Compra, decide di comprare la uno Technology, dei suoi produttori di chip, la MOS Technology, per dire, il trucco è quello, dice: non sarà più così, cioè sono io che mi produco il mio chip per le mie cose. Posso intervenire una cosa al volo? Ma Bill Gates avrebbe comprato la Texas. Cioè, se avesse avuto i soldi all'epoca, sì, diciamo che Bill Gates in quel periodo stava imparando, era giovane. La filosofia di Bill Gates era quella di comprare il concorrente, non di comprare uno che fa quel tipo di prodotto, no. La cioè, di, è un po' come di Apple con la Motorola per il PowerPC. Allora, l'intuizione di Tramiel fu molto corretta e funzionò, perché un produttore valeva l'altro a quell'epoca di chip. Sì, certo. Questo è il punto, che allora sì, però c'era una cosa: uno si legava a una tecnologia e a un produttore. Al giorno d'oggi Apple, tanto per dire, i display li prende da Samsung, che è adesso un altro mercato, non iniziamo mercato a confondere le cose, che oggi il mercato non c'entra più niente con quello che era negli anni 70, negli anni 80, è completamente era molto diverso. Più vicino all'hardware, era molto più prossimo, è completamente all'hardware. Diverso anche solo per un fatto di globalizzazione di produzione, quindi stiamo parlando di cose che non c'entra niente. Comunque, nota, il computer era ancora un prodotto artigianale, quasi. Ritorniamo al punto. Lui compra la MOS e si porta a casa gli ingegneri che gli garantiranno il suo successo, perché la MOS come progettista di chip inizia a produrre proprio in quegli anni dei chip che poi saranno riconosciuti negli anni 70 e gli anni 80 come i migliori in quel campo. Il 6502 come costo, prezzo, prestazioni, per quello che dava, per quello che produceva negli Stati Uniti, era il primo chip per i computer, diciamo, utilizzo personale, con che vogliamo. Infatti lo usarono tutti, Apple compresa, Atari, tutti usarono quel chip lì come microprocessore, e la MOS era di Commodore, quindi già da lì c'era un indotto che non ne parliamo. Da quello cosa succede? Lui prima con il PET riesce a dominare il mercato del nascente, la famosa Trinity, no? Apple II, PET e TRS-80, i primi computer a utilizzo personale della storia. Già lì vince, perché fa comunque quello che costa meno, quello che è già tutto integrato, che uno lo compra e se lo porta a casa e ne vende più di tutti. Poi arrivano gli anni 80 E lì ha un'altra grandissima intuizione, una cosa di cui si parla poco, che si inizia a capire solo adesso per bene, ma che da lì si capisce veramente la svolta di Jack Tramiel, soprattutto contro Atari, perché tu stai parlando di microprocessori eccetera, c'era già Atari che lo faceva, ma perché Atari non ci riesce e Commodore invece sì? Perché? Perché Jack Tramiel conosceva il Giappone. Conosceva il Giappone, e in un famoso libro di Tomsky, che è il marketing manager di Commodore di quegli anni, quello che sta dietro, se vogliamo, alla commercializzazione e alla crescita del VIC-20, lo riporta nel suo libro, che si chiama The Home Computer War, se non mi ricordo male, qualcosa del genere. Jack Tramiel dice: stanno arrivando i giapponesi, cioè attenzione, perché guardate che i giapponesi stanno già progettando i loro home computer e questi ci fregano. Allora, siccome stanno arrivando i giapponesi, noi dobbiamo diventare i giapponesi. Quindi cosa fa? Questo è un elemento storico, del storico e fondamentale, ricordiamoci. Sì, è vero. Prende un giapponese, il signor, come cavolo si chiama, Yash Terakura della Commodore Japan, e gli dice: tu sei a capo del nuovo personal di Commodore, progettalo tu. E lui crea il VIC-20. Come fa a creare VIC-20? Prende dei chip che avevano già sviluppato in MOS Technology. Il VIC, il Video Interface Chip, era stato progettato da Al Carpentier nel 77, ma non avevano ancora incluso questo chip, era stato progettato per essere incluso in qualche computer, si pensava nel PET. In realtà non ci fu mai mercato per metterlo nel PET, perché in quel periodo chi voleva il PET lo voleva il computer, programmare era già contento di avere il monitor e il suo BASIC e basta. Il VIC quindi era già pronto, prende il VIC, prende il chip audio progettato da Robert Yannes, sempre della MOS Technology, e crea, prende la tastiera della linea PET, quindi già una cosa che già esisteva, quindi già una bella tastiera professionale, e crea il VIC-20. Crea il VIC-20, che esce con un prezzo assurdo per l'epoca. Alla presentazione il VIC-20 aveva poca RAM, non era un computer, la grafica, come hai detto tu giustamente, era colorata, aveva i colori, la risoluzione, ma la risoluzione era bassa, non aveva l'80 colonne, non aveva neanche le 40 colonne, ne aveva, non aveva neanche meno. Gli sprite, quindi. Non aveva gli sprite, però esce questa macchina a un prezzaccio che in quel periodo lo ZX80 faceva paura. Faceva paura a tutti, infatti tutti si stavano allertando per quel prodotto, perché era il primo computer che costava pochissimo, quindi poteva penetrare in fasce di mercato dove prima nessun altro computer avrebbe potuto andare, cioè in tutte le case. E Tramiel voleva essere lui a portare il computer in tutte le case, e infatti ci riuscì per questi motivi, perché costruì questo computer con chip prodotti all'interno dell'azienda, quindi che non gli costavano quasi niente, con una tastiera, come hai riconosciuto tu, e non solo tu Stefano, perché all'epoca quando fu presentato Byte nella recensione della presentazione del VIC-20 scrisse proprio: cavoli, $290 è solo il costo della tastiera, dicevano. Sì, cioè una tastiera così costa $290, come hanno fatto nell'articolo di Byte, diciamo, come hanno fatto a fare un computer intero con una tastiera così solo a questo prezzo. Perché hanno fatto, scusa, aspetta. Carlo, solo una cosa, scusami. Come form factor, cioè l'oggetto fisico, in realtà è uguale al TRS-80 Model 1, se ci pensi. Nel senso che l'oggetto con la tastiera un terzo, così. Però. Esatto, ma quello è il punto. Sto dicendo quasi, non solo, ma quello che io insisto su un altro punto: il fatto che avesse la porta per il floppy, cioè che avesse già la presa di disposizione, bisognava solo collegare il floppy, era un elemento mostruoso. Il TRS-80 Model 1, che è la tastiera simile al VIC-20, al Commodore 64, necessita di uno scatolotto esterno. Teniamo conto che è un prodotto del 77, necessita di un box esterno come interfaccia. Non solo, quindi, l'Apple II aveva bisogno di mettere una scheda dentro per poter pilotare i floppy. Ma rimanendo su un form factor, cioè un oggetto fisicamente percepibile solo come la tastiera, Anche l'Apple II, che noi sappiamo che dentro nel 1541, comunque nel floppy Commodore, c'è dentro un altro Commodore, cioè c'è un altro computer, perché in realtà comunica con un altro. Infatti, 65 infatti costava una marea dei soldi. Esatto. Ma infatti non è un computer, cioè, perché c'era dentro un computer. Non è cioè il punto fondamentale, non è sicuramente quelle erano facilitazioni, ma il punto fondamentale era il costo, cioè dare quella cosa lì a quel costo lì. Cioè tu sapevi che ti potevi prendere uno ZX80 o uno ZX81 a poco, ma uno ZX80 e uno ZX81 erano appunto poco, era un K di RAM, era una non tastiera, era solo il processore, non aveva il suono. Perdonami Carlo, io dico, perché abbiamo fatto recentemente una puntata sui LED con Stefano e ho citato il famoso effetto falena di Simone Pizzi, no? Cioè in realtà quando si andava in quei negozi di elettronica tipo Melchioni o no, GBC non c'erano ancora, beh comunque Melchioni, perché all'epoca negli anni 80 a Roma c'erano diversi negozi della catena Melchioni e c'erano questi monitor, no, questi televisori dove c'erano attaccate le demo dei vari computer. Stai producendo una cosa che poi approfondisco, vai dimmi. No vabbè, però cioè, l'effetto falena stava lì, nel senso il VIC-20 come hai detto tu a quel prezzo lì, cioè c'avevi quei fucking 8 color che funzionavano, cioè nel senso funzionavano, perché un'altra cosa che introduco adesso e mi allaccio a quello che stai dicendo, l'effetto falena era dato non tanto dal computer che aveva le potenzialità, ma da un'altra cosa fondamentale, cioè il software. Ok, cioè tu esci con un computer bellissimo per l'epoca, diciamo, cioè che aveva molte più cose degli altri a quel prezzo, ma lo accendi e fai vedere solo il cursore che lampeggia, l'effetto falena non c'è. Tu vai in negozio, vedi un cursore che lampeggia, dici ok, fine. Quale fu l'altra grandissima intuizione del giapponese che prese parte, cioè di Yashterakura? Fu di dire, ok, noi usciamo con un computer che in Giappone fu chiamato VIC-1001, no? Quello che poi divenne VIC-20 in tutto il mondo. Io però ho bisogno anche di software per questo computer, per venderlo, perché se lo presento senza software non lo vendo. Certo, chiaro. Il grande culo chi coinvolse fu coinvolse, e questo si sa da pochi anni questa cosa, cioè si sapeva che prima, ma era passato un po' sotto, invece questa effettivamente è molto importante. Coinvolse un certo signor Satoru Iwata. Chi è Satoru Iwata? Esatto. Chi è adesso Satoru Iwata? E guarda, è quello di Nintendo. È il presidente CEO della Nintendo, ok? Il signor Satoru Iwata. Scusa, non ti ho risposto subito perché stavo a leggere un'altra cosa. Il signor Satoru Iwata ha iniziato a programmare all'università sui PET. Perché all'epoca in Giappone i PET, come nel resto del mondo, vendevano molto perché costavano poco come computer. Quindi quando uno studiava, voleva comprarsi un computer, la prima scelta andava sui PET. Siccome era conosciuto dal gestore della Commodore Japan, Satoru Iwata, come programmatore, Satoru Iwata aveva appena fondato la HAL. Al laboratorio che produceva software, e gli disse: tu sai programmare sui PET, stiamo facendo un personal, ci fai una serie di programmi e di giochi da mettere sul nostro nuovo computer, cioè sul creare la libreria software. La fece Satoru Iwata e fece dei capolavori, fece dei giochi che all'epoca erano una cosa incredibile. Fece una conversione di Pac-Man per il VIC-20 che uscì in contemporanea con l'uscita del VIC-20, che era arcade perfect. Purtroppo come Pac-Man fu venduto solo in Giappone, perché in America i diritti ce l'aveva Atari, e quindi lo dovettero vendere con un altro nome. Poi Atari gli fece causa, insomma ci furono vari casini da quel punto di vista lì, perché era troppo uguale in effetti a Pac-Man. Ma io me lo ricordo perché io nel 1982 avevo 12 anni e mi ricordo la prima volta che ho visto un VIC-20 con sopra questo Pac-Man. Sì, avevo la mascella per terra. perché era una roba mai vista, meglio dell'Atari miliardi di volte. Io stesso quando al GBC, no, ma poi quando uscì, io me lo ricordo, c'era Rat Race, c'erano tantissimi, sì, giochi, insomma, Lunar Lander, cioè, che ho e che aveva dei giochi, delle cose, e questo è l'effetto falena che dicevi tu, Simone. Anche se, Carlo, anche se, e sono assolutamente d'accordo al 100% con te, anche se ti lo raccontavo tante volte, io quando non giocavo programmavo in Basic e tutto quanto, ma in realtà mi divertivo a disegnare le schermate in ASCII, cioè, sì, cosa... questo poi a casa, cioè, facevo i campi di pallone, facevo le scelte. A quel punto i computer entrarono in casa al posto delle console, prima avevamo l'Atari, l'Intellivision e l'ColecoVision, a un certo punto abbiamo avuto il VIC-20, lo ZX81, lo Z80, lo Spectrum e poi il Commodore 64. I computer entrarono in casa e fu la prima informatizzazione di massa della storia, e infatti il Commodore 64 è veramente da ricordare come nella maggior parte dei casi del mondo, per questo specifico prima Stefano, stiamo attenti che parliamo dell'Europa e dell'Italia, lo spettro è importantissimo, ma se parliamo del mondo, cioè parliamo della globalità di quell'epoca, di quegli anni, 1982, 83, 84, 85, 87, stiamo parlando nella maggior parte dei casi del Commodore 60, VIC 20 prima e 64 dopo, che portarono alle case il computer e i ragazzi, oltre a giocare, dissero: ah, però c'è la tastiera. Poi arrivavi, prendevi in edicola la tua rivista, il tuo libricino, sì. Dicevi: ah, però guarda, si può fare così. Ha dato la stura anche al mercato delle cassettine, perché c'era un giro, sì, di cassettine, sì, sì, sì, sì, al di là di quello di cui abbiamo parlato tante volte, voglio dire, anche con Carlo, anche con te Stefano, in realtà voglio dire, no, chi mi conosce sa, dice: vabbè, non è possibile, eppure, cioè, nel senso, programmavo io, quindi figurate, nel senso che mi facevo le mie avventure, mi facevo, certo, i miei, certo, pseudo giochi di ruolo, l'informatica, quindi, di insomma, massa iniziò da lì. Sì, sì, no, è stato assolutamente il VIC-20, ci ha avuto questo doppio effetto falena. Comunque io mi ricordo ancora oggi i colori del VIC-20 sul televisore, per me era, certo, assolutamente qualcosa, e qualsiasi programma che io iniziavo a fare, mi ricordo che le prime due righe erano dedicate al POC, per mettere tutto lo schermo in nero, quindi schermo nero e bordo nero e poi mettere il coso, il cursore, quindi qualsiasi, il carattere in verde, cioè, perché mi piaceva questo effetto tipo fosco, fuori verdi che c'avevano poi i computer. E mi ricordo che il mio VIC-20, che ho amato terribilmente il 64, il mio VIC-20 poi alla fine, cioè, è stato il primo amore probabilmente, e quindi lo ricordo sempre veramente con, sembra una stronzata perché uno dice: vabbè, ma dai, cazzo, stai a parlare di una cosa, cioè lo ricordo con affetto, cioè con una certa emotività per certe cose. E ricordo che andò a finire nell'ufficio di mio padre, perché poi quando io mi arrivò il Commodore 64, c'era un programmatore che mio padre conosceva, che ci aveva fatto dei programmini che gli erano utili, e quindi io mi ricordo questo ufficio col VIC-20, esatto, che era una macchina da 2K e mezzo, cioè 3K, quando lo accendevi dal verso giusto, cioè, nel senso, se gli andavate fatto il favore, però per dirti, non stiamo parlando di anni in cui non c'era niente, quindi era il niente, esatto, con qualcosa, esatto, ok, iniziava tutto da lì, quindi dobbiamo riconoscere questo, se facciamo un riscontro storico corretto, dobbiamo riconoscere che l'informatizzazione di massa del mondo partì da Commodore. Non ce ne sono di santi. Allora, del mondo sto parlando del mondo comune, quindi non dei laboratori, non aziendale, non informatica, no, industriale. Certo. Sto parlando di informatizzazione di massa, delle case della gente, domestica, esatto, informatica personale, quella di utilizzo personale. Se tutti noi oggi usiamo dei computer in casa, in questo momento dobbiamo sapere che la prima che li portò nelle case di tutto il mondo fu la Commodore. E quello che lo porto più massicciamente, questo direi che è l'origine giapponese, l'idea giapponese di questa cosa, sia dal punto di vista dell'idea del computer e sia dal punto di vista del software a corredo, non dobbiamo dimenticare che è fondamentale, perché la qualità a quell'epoca giapponese dei videogiochi, i giapponesi in quel momento erano i primi al mondo, dettavano legge, cioè i giapponesi facevano i videogiochi che usava tutto il mondo, quindi quello fu anche la grande intuizione di Tremiel. Allora guarda Carlo, Io chiuderei così, guarda, ho questa prima parte, chiuderei con il Commodore VIC-20 è sul mercato e come vedete tutto voi, tra il momento in cui il VIC-20 è sul mercato e viene preparato e poi ovviamente inizia la distribuzione del Commodore 64, non passa molto tempo. Passa pochissimo, quasi okay. Nulla, infatti perché, diciamo che è cioè, un'introduzione. Diciamo perché allora è successo questo, cioè che perché cosa succede in quella transizione in Commodore? La diciamo adesso? Sì. Facciamo questo allora, solo il passaggio è molto semplice perché in realtà è un progetto continuativo, cioè questa creazione della prima macchina, cioè del VIC 1001, con l'introduzione del HAL per la creazione del software, Satori Iwata eccetera, tutti sanno che iniziano da lì, fu un grande successo, dobbiamo andare avanti, non dobbiamo diciamo dormire sugli allori, quindi procediamo nella stessa identica maniera. Quindi si procede alla creazione di quello che è il successore del VIC-20 quasi subito, cioè l'anno dopo, si prende sempre chip progettati all'interno di MOS Technology, in questo caso i nuovi chip video e chip audio molto molto più potenti, perché sono stati, ricordiamo come ho detto prima che il chip del VIC-20 era del 77 il progetto, ok? Erano stati presi perché era la prima cosa che c'era, invece ha rivisto completamente il chip audio, cosa sempre fenomenale. Gli stessi progettisti all'interno della MOS Technology tirano fuori questi chip che dovevano fare, il progetto era già partito di questi chip, il chip audio e il chip video, il SID e il VIC-2, ed erano i progetti per fare, nella loro testa erano per la super console, no? per una mega console di videogiochi, questi due chip in realtà vengono assorbiti dal progetto giapponese del nostro amico di Commodore Japan, Jas Terakura, e ci costruisce sopra una cosa che si chiama Max Machine, che era una specie di prosecuzione del VIC 1001 più giocosa, cioè più dedicata al gioco, quindi con una tastiera non professionale, con una tastiera tipo a quella membrana. Da membrana e che orrenda. Andava a cartucce, ok? Per mettere Basic dovevi mettere una cartuccia, se no dovevi metterci un'altra cartuccia per fare i videogiochi, che era più dedicata proprio solo pensata al giocoso, al gioco. Si rendono conto però, provano questa introduzione sul mercato, ma si rendono conto che non funziona, cioè in quel momento la gente si stava esaltando per il personal computer perché introduceva appunto questo doppio effetto falena, come ha citato prima Simone, che salvo poi giocarci comunque, esatto, sì, si giocava comunque, però introduceva appunto questa cosa, dice ah però c'ho il computer, ci posso anche programmare, no? Quindi capiscono che la Max Machine sta andando in una direzione sbagliata e riciclano questo progetto nel Commodore 64, cioè l'evoluzione del VIC-20 che costava di più del VIC-20 ma era molto più potente del VIC-20, anzi in quel momento a quel prezzo e in quell'anno direi che era il computer, il personal computer più potente in assoluto sul mercato come rapporto prezzo prestazioni, dopo cioè, la killer app, il killer home computer. No, poi mi immagino una macchina incredibile e con il software della HAL, con il software, con i videogiochi della HAL che escono subito insieme alla macchina, quindi nei negozi c'era il computer e già c'era la cartuccia sopra, certo. Quei giochi lì, ma no, comunque io mi immagino una scena fantastica di questo polacco americanizzato che entra dentro la stanza, va vicino al giapponese, gli dà la pacca, bravo, guarda i soldi che stiamo a fare, fammene subito un altro. Esatto. Adesso non potrò più non immaginarmelo in romano, io mi immagino lui che parlava in Yiddish, ma perché in realtà no, perché in realtà voglio dire, tra l'inglese e l'americano chi è più romano? L'americano. Bravo, me ne fai subito un altro. Allora, una cosa che dicono molti di quelli che parlano della storia di Commodore, della storia di Jack Tramiel era un motivatore incredibile, cioè tu quando passavi dalle mani di Tramiel lui ti spronava, ti esaltava e alla fine uscivi fuori super motivato, che dovevi lavorare, dovevi fare, dovevi tirar fuori qualcosa, no? Questo viene detto più volte. Personaggi carismatici, c'è stato uno che è stato a 5 minuti, uno che è stato a 5 minuti dalla morte, penso che, ecco, diciamo che in che modo, uno, esatto, che è uscito, cioè, dal campo di concentramento, esatto, direi, uno che è uscito da Auschwitz, non, cioè, aveva bisogno di fare corsi, per cui, cioè, tu non, cioè, io penso quante persone lo possono raccontare, io sono uscito da Auschwitz, insomma, no? Quindi, ecco, da lì in poi, insomma, tanto di cappello, va bene, allora, va bene. Chiudiamo qua questa parte, così ci mettiamo in pausa per la prossima, che invece entriamo proprio nella parte proprio ciccia, insomma, del discorso. E Stefano, dato che, insomma, stiamo chiudendo, vuoi fare un commento finale? Poi sentiamo pure Carlo, ma proprio 3 minuti, così chiudiamo velocemente. Vedremo magari la prossima volta. Commodore 64 per la programmazione richiedeva uno sforzo maggiore, perché il BASIC di base, il Commodore 64, non era esattamente godibile, soprattutto per la parte grafica. Tu hai citato POC, PIC, tutta una conoscenza che del BASIC, della macchina, delle locazioni di memoria e successivamente del linguaggio macchina, in realtà con lo Spectrum o con altri computer avevi un BASIC che era molto più facilitante, per cui sicuramente ha creato una generazione. Io stesso, quando ho approcciato il 64 rispetto allo Spectrum, lo dicevo, oddio, e adesso? Beh sì, certo, era molto meno user friendly per certe cose, però i risultati ci sono. Io insisto sempre che, secondo me, di tanta gente che ha usato il Commodore 64, tanta conosceva soltanto shift and stop, cioè la sequenza per avviare il nastro o per poter caricare i programmi. Sicuramente di tutti i milioni di 64 venduti c'è stato un sacco di gente che comunque l'ha utilizzato anche per programmare, grazie a Dio, direi. L'impatto è notevole, è innegabile, Carlo. Ci sono stati tanti altri, secondo me, che hanno avuto forse più fortune in altri ambiti. Cito solo l'Apple II nell'ambito scolastico in America. Anche questo è un pochino da rivedere, ultimamente ti spada pure sto mito, scuole con Apple II ce ne sono state fino agli anni 90, è vero, e il corso anche, il software sviluppato per scolarizzazione era tanto, che poi fosse qualitativamente buono, no, però la fortuna o la sfortuna è il fatto che da un lato Apple li regalava o comunque li donava alle scuole, dall'altro lato molto corpo docente si è messo a programmare, per cui l'iniziativa privata. In ogni caso, Commodore comincia, e la cosa divertente è che comincia come business machine. Io ho una calcolatrice Commodore, ci sono degli oggetti Commodore che sono forse paralleli al discorso che stiamo facendo ancora per archeologia informatica con Olivetti, e muore come game company, perché comunque la successiva evoluzione dal 64 al Amiga, la parte finale di Commodore, stai parlando, comunque sì, diventa, non è più business machine, ma è proprio, è un disastro la parte game finale, lascia perdere, ecco. Vabbè, sì, ma infatti lì ci arriviamo, non anticipiamo cose della parte precedente. Comunque ricordiamoci che questo Apple, Commodore, IBM, Sinclair, chi vuoi, lo metti come vuoi, tutti noi adesso li classifichiamo, diciamo questo era meglio per questo, questo era meglio per quell'altro. A quell'epoca, a Sir Clive Sinclair, a Steve Jobs, a Bill Gates, a Jack Tramiel, a come si chiama quello di Atari, a Nolan Bushnell, non ne fregava niente di quello che noi stiamo dicendo adesso, gli interessava vendere. Quote di mercato. Quindi loro seguivano quello che loro intuizioni chiedeva e le intuizioni che aveva. Esatto. Chi riusciva meglio a vendere vinceva. Punto. A volte più le intuizioni che il mercato. Perché vedi, assolutamente furono le intuizioni, infatti lo diciamo, il 1984 segna il top della Commodore all'inizio del declino, perché viene cacciato Jack Tramiel, ma è chiaro, si vede, si capisce bene da tutto quello che succede dopo. Fare un piccolo esempio per chiudere, una sciocchezza che in realtà c'entra poco, però ecco, sempre per rapportarci al discorso del Commodore 64, soprattutto nel discorso del confronto con lo Spectrum, perché io ricordo che tu facevi un print, aperte virgolette, scrivevi quello che dovevi scrivere sullo Spectrum, poi se una cosa doveva lampeggiare spingevi il pulsantino, quello che scrivevi lui te lo metteva lampeggiante e poi smettevi di lampeggiare, e quello che tu vedevi allistato più o meno era quello che tu ottenevi, insomma, visivamente, quindi già avevi una percezione di quello che tu facevi. Su Commodore 64 Esatto, sul un po' il vedi quello che ottieni, no? Quello insomma che esatto, what you see is what you get, esatto, un po' quello che insomma è una filosofia che è diventata successivamente più nel discorso stampa grafica e via dicendo. E sul Commodore 64 questo non c'era, no? Quando andavi nel Commodore 64 avevi le virgolette, se dovevi spostare il carattere usavi i tasti cursore, ma tu non vedevi realmente la posizione perché lui ti faceva queste iconcine. Se volevi fare il testo che lampeggiava, dovevi fare un ciclo, cioè in realtà creavi un ciclo che non sì, fosse chiuso ovviamente perché poi c'erano le sequenze carattere, finisco di questa cosa, poi dopo mi dite quello che volete dire. Poi se tu volevi, che ne so, press space to run, no, roba del genere, vabbè, facevi lampeggiare la scritta, spingevi space e lui andava avanti. Ovviamente la risposta era leggermente più lenta, cioè indubbiamente a livello qualitativo di software di basic, roba del genere, lo Spectrum, ritorniamo, insomma, aveva maggiori facilitazioni, e capisco che chi veniva dallo Spectrum si trovava un attimo in difficoltà col Commodore 64, però il Commodore 64 ci ha dato veramente tante soddisfazioni. Allora, anche quando lo programmavi, proprio perché era più ostico, una cosa che curva di apprendimento più ostica. Posso, Carlo, fare la chiusa. Cioè, voi state discutendo ed è giusto perché è così la passione, quando su era meglio l'aspetto, c'era quella roba. No, cosa c'è da dire? Anche tantissimi di quelli che avevano lo Spectrum non sapevano programmare, ok? C'era tanta gente che ha avuto lo Spectrum, magari l'ha tenuto in un cassetto, l'ha comprato, ci ha giocato a Manic Miner 2 giorni, 3 giorni, ne conosco io di gente così. Ma non è questo, il punto era, noi adesso parliamo a ragion veduta del poi, cioè del dopo, ok? E magari parliamo perché io, te e Stefano siamo stati tra pochi fortunati che magari hanno potuto avere più di un personal computer in quel periodo, perché magari in quegli anni hanno anche iniziato a lavorare in quel campo. Ma la maggior parte della gente quello aveva. Ti arrivava a casa il Big 20, il 64, lo Spectrum, e ringraziavi il Signore, cioè i tuoi genitori, e iniziavi a smanettare con quello. Quindi chi voleva imparare a programmare imparava a programmare con quello che c'aveva lì in quegli anni, punto. Anche perché non c'era internet, non c'era, c'erano solo gli amici magari a cui chiedere, o se no in molti casi neanche gli amici, perché comunque la diffusione non era così elevata ed eri l'unico nel tuo quartiere che aveva un computer, e ti andavi in edicola o in biblioteca a cercare dei testi per cercare di capirci qualcosa. Certo, stiamo parlando di un mondo che non è quello di adesso, e chi voleva smanettare e programmare non gliene fregava niente se doveva fare print, e allora diceva però sullo specchio faccio print e qua invece devo fare Che parli a uno che ti citava i listati delle riviste. Io lo sto facendo in un senso più generale. Dobbiamo rimetterci con la testa in quegli anni lì, non dobbiamo cercare di fare dietrologia. Io quello che ho voluto portare, non ho fatto il discorso che pensi tu, io quello che volevo portare era un'esperienza rispetto a quello che era la mia percezione da allora, perché io comunque il problema che mi sono posto adesso è che ti ho fatto l'esempio, comunque me lo ponevo anche allora, cioè se a me mi cagava il cazzo di fare determinate cose che con lo Spectrum facevo con tasto solo, capito? La domanda precisa, all'epoca tu avevi visto lo Spectrum? Sì, perché allora c'eravamo io e il mio amico di infanzia, uno c'aveva il Commodore 64 e l'altro c'aveva lo Spectrum, perché eravate i due ed entrambi li usavamo a livello incrociato, no? Lui usava il mio, io usavo il suo. È un caso, però è una mia esperienza che l'ho voluta comunque riportare, che è quella del fatto che a me mi cagava del cazzo che comunque dovevo fare delle cose in più quando quell'altro invece le faceva di meno. Dall'altra parte dicevo comunque grazie a Dio, perché io con il mio Commodore 64 sono riuscito a fare anche delle demo grafiche, per esempio, delle cose che magari lui col suo non ci riusciva. Cioè, ricordiamo che cagava il cazzo è il basic francese. È il basic dello Spectrum, esatto. 64. Però la versione quella occulta. Comunque a me premeva più che altro separare questi discorsi. No, hai fatto bene. Di una ricostruzione storica, cioè di quello che è successo in quegli anni. Quindi... io in questi due o tre appuntamenti che noi facciamo e raccontiamo ovviamente questa parabola storica del Commodore 64, dove ovviamente Carlo ci aiuta insomma a ricostruirla in una maniera più accurata. Poi ovviamente a noi piace, no Carlo, tu lo sai, insomma, ci piace buttare a mezzo anche un po' di un po' di vita nostra, no, capito? Cioè, nel senso, no, solo va questo. Va bene, dai, comunque. Okay. Adesso noi ci salutiamo. Sì. Diciamo che nella prossima parte entreremo appunto, come abbiamo detto, nel vivo, cioè entreremo nelle parti insomma più specifiche, anche cercando di far capire quali sono le differenze del Commodore 64 e del suo predecessore, andando un po' più nel dettaglio. Parleremo un po' di hardware e di software, quello che è cambiato anche a livello di basic e via dicendo. E poi in una terza parte probabilmente parleremo insomma di Commodore in senso un po' più generale, cercando di capire anche le ragioni nel bene e nel male di questa grande compagnia, insomma, che ci ha fatto appunto compagnia per tanti anni e che poi a un certo punto insomma, ci ha lasciato. Insomma, detto questo, io ringrazio Carlo. Grazie a voi. E ringrazio Stefano. Grazie a voi, fino alla prossima puntata. Una bella giocata consigliata su Commodore 64, magari su un emulatore, su Mission Impossible, tanto per ricordare il primo. Esatto, che non mi faceva paura, sì, era veramente bello. Mi è venuto in mente adesso, ho detto guarda, se devo proprio pensare a una cosa, Mission Impossible tra stay i tanti wild, stay giochi. Esatto, grande, veramente grande. Bello, c'era persino una parte di sintesi vocale, sì, esatto. Sì, era quella, e quella che faceva paura, faceva assolutamente paura, e quello è un capolavoro. Dice uno appassionato di Spectrum, ma Mission Impossible su Spectrum fa ridere. Mission Impossible per Commodore 64, secondo me esprimeva la killer application insieme all'Inter Computer People. Ah! Esatto, va bene. Grandi cose. Grazie, va ciao bene. Ragazzi. Grazie ciao, a tutto. Ciao a tutti. Ciao. Io, Alex, ho visto mia zia che ha scritto la tesi di laurea sul word processor del Commodore 64, dove c'erano i comandi per dirgli questo è il titolo, questo è il titolo sottotitolo, questo va scritto in grassetto, insomma, delle cose abominevoli. Ma ricordati sempre che c'è chi la tesi di laurea scritta in alfabeto Morse. Come si dice a sarcice in alfabeto Morse? vabbè, è chiaro che io ringrazio sempre Stefano e Carlo, perché sono dei mostri di conoscenza riguardo a tutte queste macchine, soprattutto perché hanno fatto parte, insomma, di questo mondo nell'epoca che fu, ma anche te poi, perché sicuramente anche tu poi sei diventato giornalista, se non sbaglio, dal punto di vista informatico. Mi piace poi però questa competizione tra di loro, che è la cosa che li rende amici quasi come si chiama, Tom e Jerry, ecco, se... Red e Toby, secondo me. Red e Toby non li conosco, non ignorante. Conosci Red e Toby, nemici e amici? No, purtroppo c'è l'ignoranza che Jerry, penso che anche quelli penso che facciano al caso nostro. Alex, vuoi fare un commento a questa prima parte? È stato molto interessante, ovviamente, ogni volta che Stefano e Carlo iniziano a parlare, cioè mi sento come dovrei prendere appunti, dir la verità. E mi piace che sia questo il punto di partenza, che si sia fatto questa sorta di legame molto forte tra il Commodore 64 e il Commodore VIC 20, e devo dire la verità, non vedo l'ora di ascoltare quello che verrà dopo. Benissimo, quello che verrà dopo, che verrà fra qualche giorno, quindi state pronti, io e Alex per ora vi salutiamo, vi ricordo ovviamente www.archeologiavideoludica.it, lo trovate pure su Facebook e Google Plus e chiaramente su iTunes, andate a mettere 5 stelle, che tanto non ci andiamo a vedere se avete lasciato commenti neanche sul sito, ma questo poi faremo veramente un consulto in quella che io, anzi un consulto, faremo un sunto finale in quello che poi io considererò proprio la festa di fine anno, insomma quella che quando saremo tutti alla fine e saluteremo, e quindi saluteremo anche tutti gli ascoltatori che veramente ci hanno dato tantissimo all'interno di questo di questi 5 anni, oh, cioè cazzo, cioè, è una cosa che uno non ci pensa, ma veramente sono passati 5 anni, siamo più vecchi di 5 anni, Alex. Siamo anziani, siamo cresciuti, siamo invecchiati, ci sono venuti i peli del microfono bianchi, ma devo dire che per certi versi io sono ancora, mi sento ancora giovane quando faccio queste cose. Ok, io vorrei che tu chiudessi tu questa puntata con la prima cosa che non c'è più in archeologia videoludica che ti viene in mente. Mi mancano le frasi finali di Peppe Scaletta. Ah, quelle erano fantastiche. Sì, le sue citazioni che in quei momenti c'era, a volte erano pregnanti, a volte erano talmente fuori dal tempo che mi immaginavo le balle di fieno che rotolavano. però devo dire che era soprattutto con l'accento quasi impercettibilmente siciliano di Giuseppe, erano veramente storiche queste cose. Senza considerare quando c'era come si chiama? C'era Marco che tirava lo sciacquone. va bene. Allora, it's in the game a tutti. Ciao. Allora anche porco dei due. It's in the game. Porco 2.